siamo a Piazza Vittorio, siamo in coda al corteo e abbiamo qui un compagno del Quarticciolo a cui chiediamo di intanto di dirci due parole sulla situazione del quartiere, no? Sulla composizione anche sociale e poi chiaramente su come è stato preparato, come è stato vissuto questo appuntamento e poi passeremo alle altre domande. Ciao. Ciao. A Quarticciolo si sa c'è un'occupazione che è l'occupazione dell'ex commissariato che è occupato oramai da quasi 10 anni in un quartiere di case popolari dove il problema della casa è molto sentito, tant'è che innanzitutto Quarticciolo, per chi non lo sapesse, è una borgata storica che si trova tra via Prenestina e viale Palmiro Togliatti, dietro Centocelle, e appunto è un quartiere di edilizia popolare, la proprietà è quasi tutta dell'Atre e qualcosa del Comune di Roma. E, come dicevo, appunto, il problema della casa è molto sentito, oltre all'occupazione dell'ex commissariato, che è un'occupazione organizzata dal movimento, ci sono altri due lotti occupati spontaneamente da persone senza casa e vi sono anche tutta una serie di scantinati e di seminterrati che sono occupati. Infatti in questi giorni abbiamo cercato di coinvolgere tutte queste realtà che sono presenti là nella zona proprio sulla questione della difesa del diritto alla casa. Anche perché l'Ater, che è appunto l'ex IACP che oggi è diventato un'azienda, intende dismettere, così come hanno fatto gli enti, tutto il patrimonio immobiliare. E questo ovviamente vuol dire che sta cercando di buttare fuori tutte quelle persone che hanno occupato alloggi o luoghi che hanno utilizzato come alloggi di fortuna, mi riferisco appunto ai seminterrati, agli scantinati. Questo perché anche c'è un progetto ovviamente di riqualificazione del territorio. Da pochi mesi ha aperto un teatro biblioteca e tra qualche anno ci sarà l'apertura di una delle stazioni della nuova metro C. E come spesso succede, la riqualificazione del territorio rischia di passare sulla pelle dei soggetti meno garantiti e più deboli. Per questo, insomma, noi che come occupazione siamo presenti oramai da anni e interveniamo sulla questione della casa sia con degli sportelli di informazioni ma anche con picchetti antisfratto, abbiamo cercato di organizzare anche gli inquilini dell'Ater. Per ritornare qui alla manifestazione, appunto, oggi siamo venuti insieme al coordinamento cittadino di lotta per la casa e insieme a noi sono venuti anche gli inquilini di una palazzina che si trova a viale Palmiro Togliatti 756, che invece è una palazzina di proprietà privata che da circa un anno è sotto sgombro perché gli inquilini appunto sono tutti occupanti senza titolo. E quindi appunto abbiamo cercato di convogliare un po' tutte le realtà che vivono il problema della casa in questo territorio su questa manifestazione, su questo appuntamento. Occupazioni, abbiamo visto che c'è una composizione di migranti molto significativa. Da voi è anche così o ancora la prevalenza di italiani e italiane? Ma in realtà la nostra, forse appunto perché è un po' più vecchiotta di altre, c'è una prevalenza ancora di famiglie italiane, ci sono anche famiglie straniere, però non sono magari la maggioranza come invece sono in altre occupazioni. E il Quarticciolo, essendo appunto pure, un quartiere appunto tutto di edilizia popolare, è un quartiere fondamentalmente di italiani. Sì, l'ultima cosa che volevo chiederti, se abbiamo ancora un minuto, era chiaramente le lotte precedenti, abbiamo avuto 15 anni governi centrosinistra, abbiamo avuto un piano regolatore approvato in fretta e furia pochi mesi fa, giusto pochi giorni prima che Veltroni se ne andasse, quindi voglio dire, questa manifestazione nasce anche da un'emergenza che sono i propositi del sindaco post fascista o attualmente fascista a seconda dei punti di vista di questa città Alemanno, però i problemi non nascono da adesso, perché la contrapposizione con le precedenti giunte mi sembra c'è sempre stata, o no? Ma il problema della casa ovviamente qua a Roma è un problema storico, e se da un certo punto di vista le amministrazioni precedenti hanno in qualche maniera avuto un dialogo con i movimenti e hanno assegnato col contagocce qualche casa, sicuramente non hanno fatto nulla di serio, di reale per affrontare un problema che coinvolge decine di migliaia di persone. Basta dare un dato che la liberalizzazione degli affitti è avvenuta con le giunte di centrosinistra e per cui oggi ci ritroviamo col paradosso che la delibera comunale, la 431, che assegna i famosi bonus casa, di fatto permette ai piccoli proprietari di usufruire di soldi pubblici che invece potrebbero essere utilizzati per costruire nuove case popolari o per ristrutturare quel patrimonio abbandonato che è presente dentro questa città.